Arrabbiata, Fiocco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Per lei. Basta, oh sì, mi seguono al commissariato, prego. No, no, no, attenzione. No. Bastano i soppaltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. No. Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ed eccolo qua il vostro amico Andrea. Non sono scappato, cari amici o cari amiche, mi sono catapultato qua sull'astronave Enterprise per un ennesimo viaggio nella storia della musica. Questa sera uno speciale dedicato a Ugo Tognazzi, in specifico è la parte seconda, la prima parte è andata in onda ieri sera, quindi se vi siete persi la prima parte, su Spreaker trovate proprio il podcast della prima parte. Due minuti prima e dopo le ore 21, buona serata a tutti quindi e benvenuti a bordo dell'astronave Enterprise. Spieghiamo un pochino questo speciale. Ieri era il compleanno per l'appunto di Ugo Tognazzi e noi abbiamo dedicato un programma a lui. Abbiamo ascoltato in specifico alcune delle colonne sonore dei suoi film e abbiamo parlato a grandi linee della sua vita. Lo faremo anche questa sera, però questa notte analizzeremo per lo più il Tognazzi attore e anche il Tognazzi regista, perché Ugo ha interpretato in prima persona delle pellicole ma ha anche diretto proprio dei film, quindi leggeremo quali sono state queste pellicole e ascolteremo anche delle colonne sonore. E poi Dulcis in fundo ascolteremo le colonne sonore di alcuni dei miei film preferiti. Ovviamente avrete capito tutti qual è il mio film preferito, dai, lo devo dire, lo dico, dai, vi faccio sentire solo la base. Dai, chi è che indovina? Un regalone, dai, dai, dai, dai, va bene. Questa era la base di Amici miei di Mario Monicelli e di Germi, dove appunto Tognazzi interpretava il mitico conte Raffaello Mascelli. Scusate, ma ho sempre il teletrasporto, c'è qualcuno che ci viene a trovare spesso, chissà chi è, non lo so, vediamo un po', chi c'è? Mi scusi, dica. Sì. Antani, come anche per il direttore, la supercazzola, lo scappellamento. Eccolo qua. Adesso. Come si suol dire, l'abbiamo chiamato ed è arrivato, vabbè, dai. Era il conte Raffaello Mascelli, appunto Ugo Tognazzi. Scusate se mi ripeto, ma essendo abituato a fare radio come si faceva un tempo in FM nel 1999, quando questa trasmissione andava in onda su Radio Inchiesta Vigevano, di solito ricordo sempre cosa state ascoltando così, però mi sono accorto che essendo su Spreaker potrei anche evitare perché c'è proprio il titolo eccetera eccetera. Vabbè ragazzi, perdonatemi, non sono un DJ professionista, ma mi diverto solamente a fare questa trasmissione qua con voi ogni tanto, saltuariamente, diciamo così. Ascoltiamoci la prima canzone, ed è per l'appunto il lato B del vinile che abbiamo ascoltato ieri sera cantato da Ugo Tognazzi. La canzone che vi propongo è intitolata semplicemente, stavo leggendo Molly Pucci Cippalippa, no, non è quella. La canzone che vi propongo è stupenda, è intitolata Squisita, bionda e morbida. Per voi, il nostro Ugo Tognazzi. Eri sul punto di impazzire, solamente poco fa, ma ti ho sbattuta come dico io. Lo ammetto, ci so fare, ho esperienze e abilità, in simili emergenze sono quasi un dio. Adesso sei stupenda, soda e bionda, come piace a me, ti guardo e quasi mi ti mangerei. Staresti bene stesa sopra un ricco canapè, annuso il tuo profumo e sento che mi vai. Buona, eppure quanto male fai, almeno a chi di te non sa saziarsi mai. Ho sulla lingua il tuo sapore e lecco con golosità i baffi tutti umidi di te. Ti voglio ancora e ancora con selvaggia avidità. Dai gusto al mio palato raffinato. Sei venuta in un modo fantastico. Domani ne farò le spese, il mio peccato sconterò, ma adesso la mia voglia sazierò. Perché la maionese irresistibile, la voglio sempre in tavola, è la cosa che mi piace di più. Stupenda, soda e tenera, squisita, bionda e morbida, mi tenti e cedo subito, sei il massimo. Mi fa un po' male il fegato, però mi mandi in estasi e mai saprò resisterti, no, no. Mai. Mai, mai, maionese, mai. Mai più. C'è un giro di basso questo vinile che mi piace tanto. Era Ugo Tognazzi, squisita, bionda e morbida. Lato B del vinile che abbiamo ascoltato ieri sera, Risotto amaro. Siete a bordo dell'astronave Enterprise speciale dedicato al grande attore cremonese. Ora continuiamo a leggere la sua storia, cos'è questa sera reperita da Wikipedia. Continuiamo quindi a leggere dalla storia di questo grandissimo, grandissimo artista. Abbiamo parlato ieri sera di teatro, ora invece guardiamo un attimo il piccolo schermo. Tognazzi ha preso parte a Varietà 1, 2, 3, comicità più popolaresca e sanguigna di Ugo, è quella raffinata della sua spalla, Raimondo Vianello, così che potremmo definire questa comicità un po' l'inglese di Raimondo Vianello. Dopo numerose fasi cinematografiche e televisive di Tognazzi negli anni 60, passa definitivamente alla commedia all'italiana, dando un apporto molto personale al genere. Al suo interno, infatti, gioca magistralmente la carta delle sue radici equidistanti tra l'operosa Milano e la godereccia bassa padana. tra cui appunto le città di Cremona, Piacenza e Mantova. Infatti in molti film Tognazzi ha utilizzato proprio questa sua, diciamo così, caratterizzazione della sua terra per dare un'impronta genuina alle sue opere. Ricorderete tutti, infatti, per farvi un esempio, La Califa del 1971, questa specie d'amore, e poi anche nel film La tragedia di un uomo ridicolo del 1981, che gli ha valsa persino la Palma d'Oro, pensate un po', al Festival di Cannes. C'è anche un'altra pellicola dove Tognazzi, diciamo così, ha interpretato un ruolo così di un personaggio proprio della Bassa Padana. Lo ricorderete tutti, un film molto divertente, almeno per quanto concerne la prima parte. La seconda parte invece è un po' più drammatica. Sto parlando di La Mazurca del Barone, della Santa e del Fico Fiorone. Noi ascoltiamo proprio la colonna sonora affidata anche per questa volta al maestro Armando Trovajoli. Eccolo qua. E questa pellicola, appunto, Ugo, era Anteo Pellacani. Personaggio veramente bizzarro, un pochino scontroso, diciamo così. La prima parte è uno spasso unico, veramente, se non l'avete vista, mi pare che su YouTube ci sia. C'è questo personaggio veramente molto molto scontroso, potremmo definirlo un po' esaltato, così, da vedere. Infatti il suo personaggio è proprio dalle zone appunto di Bologna, quelle zone lì, quindi molto molto emiliano. Poi ci sono state altre pellicole che appunto l'attore ha dato la sua impronta proprio cremonese. Potremmo ricordare principalmente La Marcia su Roma di Dino Risi, poi ancora Il Federale di Luciano Salce. Parallelamente a queste esperienze di cinema d'autore, Tognazzi si impegna anche nella trilogia di, e di che film è? Di Amici Miei, ovviamente, la mitica trilogia di Amici Miei, che appunto nel 1975-82-85 è interpretato. E poi, sempre con grande personalità e direi bravura, ha interpretato anche Il Vizietto accanto a Michel Serrault. Siamo nel 1978, 80 e 85, anche in questo caso una trilogia. E ora ascoltiamo proprio un estratto dal Vizietto. Adesso vediamo un po' cosa che c'è in scaletta. Eccolo qua, ve lo metto immediatamente, vi faccio ascoltare una versione stupenda della colonna sonora di Ennio Morricone, Il Vizietto, per tutti gli amici e per tutte le amiche all'ascolto questa sera qua a Star Trek. Thank you.